Na na na na na na na na na. Enjoy sul beat a Garbagnate Street. Enjoy sul beat a Garbagnate Street. Devo pagare comunque vada. Devo pagare comunque vada. Devo pagare comunque vada. Comunque vada, comunque vada. Non sono il tipo da storie serie. Ho la fama di un puttaniere. Devo pagare comunque vada. Sono solo un puttaniere. Un puttaniere, un puttaniere. Non sono il tipo da storie serie. Devo pagare comunque vada. Non sono il tipo da storie serie. Le donne sono tutte uguali. Devo pagare comunque vada. Che sia seria o una puttana, devo pagare comunque vada. Ti porto al cinema, al ristorante, ma devo pagare comunque vada. A fare shopping in centro nei negozi, ma devo pagare comunque vada. Comunque vada, non mi è bastata. Comunque vada questa scopata. Allora compro la rivista Chiamami. Cerco una escort da 100 euro. La voglio a domicilio con la Z4. Mi viene a prendere, mi smonta in quattro. Non sono il tipo da storie serie. Ho la fama di un puttaniere. Devo pagare comunque vada. Sono solo un puttaniere. Un puttaniere, un puttaniere. Non sono il tipo da storie serie. Devo pagare comunque vada. Non sono il tipo da storie serie. Compro i preservativi e devo pagare comunque vada. Quando usciamo con gli amici, devo pagare comunque vada. Facciamo un viaggio a Londra, amore, devo pagare comunque vada. Ho la visita dal dottore, devo pagare comunque vada. Tu sei furba e sei anche bugiarda e devo pagare comunque vada. Comunque vada questa giornata, comunque vada è una litigata. Le donne sono tutte uguali, devo pagare comunque vada. Non sono il tipo da storie serie, ho la fama di un puttaniere. Devo pagare comunque vada, sono solo un puttaniere. Un puttaniere, un puttaniere. Non sono il tipo da storie serie, devo pagare comunque vada. Non sono il tipo da storie serie. Non sono il tipo da storie serie, ho la fama di un puttaniere. Devo pagare comunque vada. Sono solo un puttaniere. Un puttaniere, un puttaniere. Non sono il tipo da storie serie. Devo pagare comunque vada. Non sono il tipo da storie serie. Devo pagare comunque vada. Le donne sono tutte uguali. Saluto Rice, i Monkey Mono, Gabo e Ray. Milano, wake up.